140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter, seguendo il mio account @MartaCagnola o con l'hashtag #140caratteri. Come ogni settimana, mano a mano ci avete anche mandato in diretta via Twitter le vostre domande. Ecco gli spettacoli di questa settimana dalla viva voce dei protagonisti. Studi di Radio 24, Milano. Yesterday, Today, 1976-2012. Per Umberto Tozzi, due CD, uno che guarda al passato, uno al presente, perché accade di ritrovare l'ispirazione. Meno male che accade. Non so esattamente come accade, però credo che ti senti dentro qualcosa che ti dice, che ti porta sullo strumento, e a quel punto lì poi nasce sicuramente qualcosa. Ho fatto tanti successi, ma anche tanti insuccessi. Ti cito: mi è servito per capire quando ho cose forti o no. E quindi questa volta? Questa volta, se l'ho fatto, questo CD di inediti, che era circa 6-7 anni che non facevo, e l'ho fatto apposta perché credo di avere fatto del materiale molto interessante, almeno che ritengo, io ritengo interessante sicuramente per il repertorio mio, e sarà un CD che sicuramente mi segnalerà qualcuno un domani dicendomi: quello non era male. Si sa sempre a posteriori, però, perché si fa sempre con entusiasmo e dopo è si vero, scopre. Sì. E questa è la maledizione della musica, non è come il calcio che quando fai gol godi subito, hai capito? La musica è, insomma, come i film, cioè hai un responso dopo diverso lungo tempo. Stai, se la stai su di me questa notte, come se fosse lei, fosse Dio, fosse quello che ero io. Canzoni semplici. Hai fatto nella presentazione del disco un'ode alla semplicità, la tua ricetta del successo, la semplicità che ti ha insegnato un maestro importante. Sì, Giancarlo Bigazzi mi ha insegnato a fare questo mestiere, a mettere in ordine le note e, insomma, a seguire una certa logica per creare delle canzoni di un certo tipo. E poi il lavoro, il talento sicuramente aiutano, però fondamentalmente devi avere un'ispirazione di quel tipo lì quando si crea una canzone. E questo lavoro l'ho fatto proprio pensando a come ho iniziato la mia carriera e alla semplicità con la quale mi venivano fuori certe canzoni creandole. E ho voluto proprio immedesimarmi e ispirandomi a me, in pratica. E questo è stato la cosa, diciamo, la chiave più semplice per poi scrivere delle cose che ritengo siano sicuramente toziane, ma che in ogni caso sono più di oggi, in ogni caso. Gloria. Gloria sui tuoi fianchi. 1976-2012, com'eri nel 76? E che effetto ti fa rivederti e risentirti? Beh, guarda, una delle ragioni per le quali ho fatto questo doppio CD è perché tutto il mio vecchio materiale non mi piaceva più riascoltarlo così, volevo assolutamente cambiarlo, ma non tanto, però in ogni caso rifare, risuonarlo, ricantarlo, perché la mia voce, insomma, non mi entusiasma di quando ero ragazzino. Oggi mi piace molto di più e credo di cantare anche meglio, quindi ho voluto riprendere appositamente il vecchio materiale per rifarlo. Questa è una ragione. L'altra ragione è che l'Umberto del 76 non si può sicuramente più ritrovare, perché era un ragazzino che veniva dalla strada. Io ho fatto il chitarrista, ho suonato con diversi gruppi nella Torino dove sono nato, e poi mi sono trasferito a Milano e qui ho cominciato, diciamo, a essere un po' più professionale. E ho fatto degli incontri importanti che poi sono stati determinati per il prosieguo della mia carriera professionale. E la diversità è che in quel periodo lì è passato tutto troppo velocemente, perché improvvisamente mi sono trovato immerso nel mondo discografico con un successo enorme, e a questo non ero assolutamente preparato. Oggi mi divertirei molto di più. Cosa si prova di fronte ad alcune canzoni che sono veramente nella storia, sono intoccabili? Cosa succede ad esempio a Gloria o a Ti amo? Una delle ragioni per le quali non ho ritoccato Gloria, Ti amo e Tu è appunto perché io ritengo che le persone che hanno vissuto e conosciuto quel momento lì mio musicale le vogliano risentire sicuramente così come sono nate, quindi le ho solo rinfrescate rifacendoli suonare da questi grandi musicisti che hanno collaborato con me per il progetto. Ma a Greg dissi immediatamente: guarda Greg, cambia, fatti venire mille idee per qualsiasi brano se hai voglia, come è successo per Notte Rosa, per esempio, che si è inventato la prima parte di reg, molto bella, almeno mi sembra molto carina. E però gli ho detto: Greg, non toccare Ti amo, Tu e Gloria, perché sono tre canzoni che non vanno sicuramente stravolte. Greg Matheson ti accompagna da un po' di tempo. Greg, sì, da quando abbiamo cominciato il primo lavoro insieme era Gloria. Era il lontano 79 e ci incontrammo. Lui venne da Los Angeles e andammo a registrare all'Union Studio di Monaco di Baviera, in Germania. Tu sempre da esportazione, e infatti se si guarda l'elenco delle tue date, del tuo tour, intanto sono delle tappe che chiunque si sognerebbe, e poi però in Italia qui bisogna aspettare il 7 settembre, andare per forza a Bari? Per il momento, perché poi comunque credo che metteremo sicuramente in piedi un piccolo tour dove non so ancora, però in ogni caso sicuramente lo faremo dopo l'estate. Ti amo, un soldo ti amo, in aria ti amo, se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci. Ti amo, io sono ti amo, in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore nel letto. 140 caratteri, una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. Ancora con Umberto Tozzi e poi con il teatro nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Guarda, onestamente sono molto più sereno di ieri, perché da circa 7 anni, anzi sono 7 anni, non ho più un contratto discografico con le major, quindi mi sono sentito immediatamente libero di fare quello che desideravo fare e ho creato una piccola etichetta indipendente che mi cura mio figlio Gianluca. Credo che quel tipo di ottica del mercato discografico di una volta purtroppo non possa esistere più. Nella mia epoca c'erano dei grandi direttori artistici nelle etichette che gestivano bene i giovani e ti davano la possibilità di sbagliare e qualora il primo disco non funzionasse avevi almeno altre 2 opportunità. Oggi invece i ragazzi non hanno primo questa bella famiglia intorno, l'editore che ti consiglia, l'eventuale autore che ti può portare una canzone molto particolare e interessante, il direttore artistico che ti guida sulla scelta, le produzioni erano veramente fatte con un criterio di personalizzazione dell'artista. E tutto questo era un mondo bellissimo che purtroppo io ho vissuto, cioè felicemente ho vissuto, ma purtroppo è finito, perché sarebbe stato stupendo fosse continuato, e credo che se fosse continuato sicuramente molti ragazzi di oggi in Italia avrebbero avuto delle grandi chance e si sarebbero visti crescere e nascere dei nuovi artisti, forse o almeno come la nostra generazione. Se tu non fossi qui, se non fossi qui, se non fossi qui, girerei la luna come un soldato cercandoti, griderei il tuo nome fino ad annegare di lacrime. Se non fossi qui, se non fossi qui, se tu non fossi qui. Sei fermata qui dove il tuo destino ero io per te, dove il cielo è aperto, il tuo cuore è matto, batte per me. Dove trovi amore senza paura, riposerai qui con me. Visto che hai citato Gianluca, hai detto che tuo figlio è stato un po' un ritornare a una insieme a una persona che ti dà entusiasmo, come è stato con Giancarlo Bigazzi. È molto bello. Sì, questo. Giancarlo era fantastico perché, oltre ad essere un grande artista, era mio papà, perché in qualche modo mi stimolava, mi chiamava spesso per dirmi: ma dormi o fai qualcosa? E allora io purtroppo, siccome notoriamente sono molto pigro, e ho bisogno proprio di stimoli e di qualcuno che mi dia questo input. Ma onestamente per questa produzione devo ringraziare Gianluca mio figlio, che ha in qualche modo mi ha dato una sveglia un anno fa circa, un anno e mezzo fa: fai qualcosa o non fai più niente, se no. e così mi ha stuzzicato e lì è nato questo progetto, insomma. Raccontiamo un po' il viaggio di questi inediti, dove hai trovato idee e ispirazioni? Guarda, io l'ho scritto nell'arco di 6 mesi, così. Sono arrivato fino a gennaio che non avevo neanche un testo. Record. Sì, e a gennaio ho fatto quello che ogni tanto mi piace fare, quando ho la possibilità e il tempo me lo permette, e vado alle Mauritius, che è un luogo dove io e mia moglie andiamo volentieri. Praticamente ho cominciato a scrivere lì. In 7 giorni ho fatto 7 testi, poi gli ultimi 3 li ho fatti quando sono tornato, ma è nato tutto alle Mauritius. Sorridi amore. Si tiene la barra dritta per tutti questi anni e si va avanti nonostante, insomma, gli alti e i bassi che succedono in ogni carriera, anzi gli altissimi e i bassi, a volte anche gli altissimi possono fare... Anche per questo non ho la palla di vetro, purtroppo, però ti assicuro che i momenti bassi sono tristi, perché succede che ti crolla tutto addosso e poi improvvisamente si rinasce, non so perché, però no, a me succede così, è successo moltissime volte e sono abbastanza preparato oggi, ecco, se un domani c'ho un altro down, però forse diciamo che oggi, quando sono più sereno, ecco, godo di più di prima, perché so che poi purtroppo dopo il sereno arriva la tempesta e quindi bisogna riuscire ad affrontare sempre tutto. Mi aprono, dammi una speranza, solo in questa stanza non ci sto. Mi aprono, mi aprono. Diamo un senso a ieri, apri questa porta o morirò. Mi aprono, mi aprono. Si sente nella parte today grande serenità, semplicità, come hai detto tu, nel senso buono. Insomma, 3 minuti e 30 sono la ricetta giusta per vivere in maniera con la misura giusta. Con la misura giusta, sì. La musica, no, ci sono anche delle canzoni molto, molto belle, importanti, che devono durare giustamente molto di più. Però se si riesce ad ottenere quella sintesi di chiudere un brano a livello armonico e melodico in 2 minuti e mezzo, 3, è fantastico. Scuola Beatles. Piccolo Teatro, Milano. 800 alzate di sipario, 11 produzioni e il prossimo cartellone del Piccolo Teatro di Milano. Il direttore Sergio Escobar. È un viaggio nell'identità. Riflettere sul presente significa non concedere demagogia a un futuro, ma leggere i germi della possibilità di futuro nel nostro presente in una linea che non è più così semplice, che è evidentemente di contaminazioni, di idee, di linguaggi, di parole, e questo è il filo conduttore della stagione. Dal testo di Spregelbull, di messo in scena da Luca Ronconi, al testo messo in scena da Bob Wilson, ma anche il testo di Tony Servillo, di Eduardo, è una specie di discesa agli inferi dell'io. Ma l'io per noi è identificato con Ulisse, adesso noi abbiamo a che fare con Ulissi e non con Ulisse. E allora domandarsi se la Grecia è fatta parte o meno dell'Europa, devo chiedermelo sapendo quanti Ulissi attraversano le nostre città e quanto l'Europa debba rinascere confrontandosi con questi cambiamenti. Ha citato la Grecia, una collaborazione importante in un momento delicato. Beh, una collaborazione importante, io ho sentito questa mattina di nuovo il mio collega di Atene, tutti i giorni ci sentiamo. Sfidiamo non l'incoscienza ma la necessità, ma non per chiuderci nel mito dell'Europa che è nata con Ulisse, con la Grecia, ma per domandarci insieme cosa sta cambiando nel mondo, perché la risposta alla crescita non è per un PIL che non sia esclusivamente determinato dalle società che determinano, come si dice, le certificazioni, nasce dall'interrogarsi sul cambiamento. Chi non fa questo è davvero matto, davvero non ha a cuore neanche lo sviluppo economico reale. Ce lo dice Moren, che è tornato dopo il 2004, è tornato qualche settimana fa a raccontarci questo. La complessità ci spaventa, ma l'uscita da un'economia asfittica che si autodistrugge è solo in questo viaggio. Altra alternativa non ce n'è. Ed è tutto per il 140 caratteri di questa settimana. Continuate a seguirci ogni giorno attraverso il mio Twitter @MartaCagnola. L'appuntamento in radio è per domenica prossima.